Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. I tagli alle regioni e agli enti locali previsti dalla manovra sono legati alla blindatura sul patto di stabilità, i cui risultati attesi sono blindati e chi sgarra non sarà rieletto e subirà pesantissimi tagli. Quindi questa manovra si ripercuoterà, come avviene oggi, principalmente sulla spesa per investimenti e sulle imprese, e non sulle spese di funzionamento. Oltretutto, il commissariamento e il taglio produrranno disavanzi e dissesti che poi saranno a carico dello Stato, visto che i comuni non falliscono. Altra cosa buffa, la dismissione delle partecipate. Per dismettere, posto che la maggior parte sono partecipazioni di più enti, occorre che qualcuno se le compri. Anche la Corte dei Conti lo ha capito e ha invitato gli enti a soprassedere. Perché poi dismettere significa chiuderle e basta. E se sono partecipazioni miste con i privati, devi anche ristorare i danni. E le manovre strutturali? Le pensioni? Posto che la cosa più scellerata è stata la manovra di Prodi, che ha ripristinato le pensioni di anzianità con il tesoretto, non mi sembra di vedere nulla di nuovo se non l'incremento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, praticamente niente, e lo slittamento delle finestre. Questo perché il senso è chiaro: chi tocca le pensioni perde le elezioni. Meglio bloccare il pubblico impiego, così si vanno a far friggere anche i tentativi di riforma di Gelmini e Brunetta. Nicola. Che abbattere la scure sulle magre retribuzioni dei dipendenti pubblici sia la cosa più facile da fare per racimolare un po' di euro, è chiaro a tutti. Resta il fatto che sul lavoro dipendente in genere, privato e pubblico, i tagli vanno già operato, nella forma della falcidia del potere d'acquisto post-euro, dalla quale i liberi professionisti si sono ben difesi, e dall'aumento delle utenze, dei carburanti, delle polizze, degli affitti, che hanno inciso per quasi 800 euro l'anno in media. Lo stop ai rinnovi contrattuali è dunque un'oggettiva ingiustizia, ma soprattutto una scelta autolesionistica che, attraverso la contrazione della domanda, finirà per ripercuotersi sulle casse statali in forma di minori entrate dirette e indirette. Mi domando se non sia venuto il tempo di approcciare il problema debito pubblico in modo radicale, guardando a un'operazione di vendita dallo sterminato patrimonio pubblico con introiti vincolati alla riduzione diretta del debito, come il riacquisto di titoli emessi. Così come lo stesso coraggio andrebbe messo sul fronte evasione. Spostare la tassazione sulle cose, introducendo aliquote IVA differenziate per gli acquisti di lusso, sarebbe ben più utile delle paventate misure da stato di polizia, come la fattura telematica o l'obbligo del bonifico bancario. Queste avranno il solo risultato di tenere lontani i capitali dall'Italia. Luca. Sul tema delle retribuzioni ai parlamentari, tutti loro, nel fare i conti della serva, portano in detrazione la partecipazione a convegni, le spese per alberghi, per spostamenti, eccetera. Ebbene, anche se non sono un organizzatore di congressi, ho buoni motivi per ritenere che questa attività, oltre a non costare un solo euro ai nostri parlamentari, sia viceversa una cospicua entrata, spesso in nero, che va ad aggiungersi ai già lauti compensi. Luigi. È ormai assodato che la gente è molto abile ad adattarsi alle nuove situazioni e, siccome la manovra non cambia la struttura, spesa, tasse, responsabilità sentita e percepita, tutta la pubblica amministrazione locale si organizzerà per mantenere il livello di spesa abituale. L'unica soluzione è applicare, da subito, un sistema dove gli enti locali non ricevano soldi dal centro e siano liberi di imporre tributi come vogliono. In una sola botta si farebbe il federalismo e lo Stato si libererebbe di enormi spese. Roberto. Volevo intervenire sulla problematica della fuga di notizie nell'accordo tra il dottor Santoro e la RAI. Il buon Santoro, secondo il mio modestissimo parere, voleva tenere segreta la sua cospicua buona uscita per poi, dopo aver vincolato la RAI ad un accordo di segretezza assoluta, accusare Berlusconi di averlo fatto fuori, rinverdendo i fasti del suo vecchio e ritrito discorso sul bavaglio mediatico e sull'editto bulgaro, incassando magari anche l'appoggio di molti direttori di giornale che sbandierano la stessa cosa. Ora io mi chiedo, ma è possibile che non ci sia altro modo in Italia per fare del buon giornalismo, anche di denuncia, che che non passi per la benedetta, maledetta intercettazione gossip. Bisognerebbe intervenire. Giacomo. Come mai, se si fa una legge contro la pubblicazione delle intercettazioni, i giornalisti si sentono attaccati nel diritto democratico a fare quello che vogliono, ma se c'è una fuga di notizie sul contratto di Santoro, quel baluardo della democrazia si arrabbia come una vipera? Giulio. Ho sentito un'intervista a Stefano Rodotà nella quale l'ex garante della privacy sosteneva l'opportunità di non limitare né le intercettazioni per esigenze di polizia, né, tantomeno, la loro eventuale pubblicazione in favore del più ampio diritto di cronaca. Bisognerebbe ricordargli che quando il governo Prodi propose una legge simile al DDL Alfano al fine di tutelare il diritto inviolabile dei cittadini alla libertà e segretezza delle comunicazioni contro gli abusi dei giornalisti, ma soprattutto dei magistrati, il professor Rodotà sosteneva l'esatto contrario di ciò che afferma oggi. Diceva infatti: «La libertà di comunicazione oggi è fortemente insidiata dalle nuove tecnologie, ma proprio per questa ragione è necessaria una disciplina e una tutela forte. È molto grave quello che sta avvenendo con le intercettazioni. Penso sia urgente intervenire nella materia». Si è diffuso un costume perverso, c'è, al di là del diritto sacrosanto all'informazione, da una parte una curiosità morbosa, dall'altra un uso politico di materiale che è stato raccolto per altre finalità, che evidentemente inquieta e inquina. In questa materia, e per ricostruire un minimo di civiltà, servono norme molto rigorose. Queste le parole di Rodotà nel giugno del 2007. A quanto pare, col cambio di governo ha cambiato diametralmente opinione. Alessandro. A proposito del disegno di legge sulle intercettazioni, da uomo di sinistra e socialista affermo che la presenza di forcaioli e di atteggiamenti massimalisti e giustizialisti in seno al mio schieramento, dimentichi dell'umanesimo socialista, ha fatto sì che la destra si appropriasse, pretestuosamente e indebitamente, di temi garantisti al solo fine, ma a quanto pare, di tutelare interessi particolari che sono propri dell'essere di destra. Giovanni. La Coop e la Conad boicottano i prodotti made in Israele. Perché non si scandalizza nessuno? Luigi. Vari politici, in modo trasversale, resistono all'ipotesi di riduzione dei loro appannaggi e cercano giustificazioni. Sono d'accordo che non si tratti di misure sostanziali, ma questo non vuol dire che non debbano essere colpiti anche loro. In particolare mi ha incuriosito l'affermazione dell'onorevole del PD Paola Concia, che dice di spendere 1000 euro al mese per il telefono. Visto che io ho una piccola azienda e utilizziamo tantissimo il telefono, l'affermazione mi è sembrata eccessiva e quindi anche gli altri costi mi suonano dubbi. Ho provato a vedere cosa si possa fare con 1000 euro di telefono in un mese, utilizzando tariffe normali a disposizione di tutti. Per prima cosa, un mese di 30 giorni a 720 ore. Con circa 72 euro, traffico compreso, posso avere due linee telecom che mi consentono di poter telefonare illimitatamente a tutti i numeri fissi 720 ore più 720 ore. Ipotizzando di stare al telefono cellulare 8 ore fisse tutti i giorni, sono 240 ore al mese, che si possono coprire con circa 540 euro. Mancano ancora 360 euro. Renzo. Siamo arrivati al momento della privatizzazione degli stati, ovvero al momento in cui, per ripianare i debiti, gli stati devono vendere i gioielli di famiglia. Così la Grecia deve vendere alcune delle sue magnifiche isole, dato che ne ha tante, o i suoi tesori d'arte. In fondo anche di questi ne ha tanti. Nulla da meravigliarsi quando una multinazionale fattura tre volte il PIL del Portogallo. Chi è lo Stato e chi comanda? Siamo alla fase 3 del capitalismo. Arriveremo alla creazione di città-stato o isole-stato di proprietà delle multinazionali, che dopo aver affossato gli stati più lenti e più vecchi, con le manovre di finanza ben architettate, ora intervengono per avere la propria fetta di territorio, farci il loro stato e insediarvi le loro sedi. Vantaggi? Tutto esentasse, tutto profitto. Nessuna legge da rispettare se non la propria. Val pure la pena di investire qualche miliardo di euro. Siamo tornati all'età dei comuni. Che bello! Avremo un nuovo Lorenzo il Magnifico. Forse. Alex. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.